cosa ti tocca. Ho un cuore d'oro, sai, il cuore più santo. Per così poco me la merito tanto. Baby, the night is over.